Quella fu la prima di una serie di meravigliose merende fatte nel giardino segreto. Colin e Mary dissero a Deacon che, oltre alla loro profonda gratitudine, la sua mamma doveva accettare anche che loro mandassero una parte delle loro mance settimanali, perché non era giusto che una donna che doveva mettere a tavola 13 persone con uno stipendio molto modesto pensasse a mandare anche merende a due ragazzini che, senza far niente, ogni settimana ricevevano più di quanto lei e suo marito guadagnavano lavorando tutto il giorno. Così furono tutti contenti e Deacon continuò a portare i suoi panieri e andò perfezionando i menù, quando scoprì che nel bosco del parco, più o meno nel luogo dove Mary lo aveva incontrato la prima volta, c'era una radura con in mezzo un albero grandissimo, il cui tronco aperto formava un'incavatura ideale per costruirci, con delle pietre ben sistemate, una specie di fornetto al riparo dal vento, dove poter cucinare sulle braci patate, uova, salsicce. Le uova fritte con il lardo a pezzetti e le cipolle affettate erano una golosità sconosciuta per Mary e Colin. E così le patate arrostite, condite con il burro e il sale dopo cotte e mangiate con tutta la buccia che era stata prima ben lavata e diventata croccante sul fuoco. Deacon stesso comprava le patate e le uova con i soldi dei due cugini e così ne potevano mangiare quante volevano senza avere la sgradita sensazione di approfittare troppo della bontà di Susan Sowerby. Ogni mattina, per qualche tempo, ci si riposava all'ombra del susino. I suoi bei fiorellini bianchi erano tutti sfioriti, ma erano stati sostituiti da tante piccole foglie verdi e costituiva sempre un baldacchino degno di un re. Colin amava fermarsi lì sotto con la sua carrozzella quando arrivavano nel giardino e partire da lì per fare le sue passeggiate. C'era un miglioramento continuo e Colin in cuor suo pensava che l'incantesimo del giorno, quello di cui aveva parlato a Ben e ai suoi amici, quello che sentiva dentro di sé, anche se non sapeva spiegarselo e dargli un nome meno stravagante, aveva un gran posto nella sua guarigione. Ma ancora, un giorno Deacon gli disse: «Ieri non sono venuto perché dovevo fare delle commissioni per la mamma a Twaith e proprio davanti all'osteria della Vacca Blu ho incontrato Bob Haworth. È il giovanotto più forte della brughiera. Ha vinto vari campionati di lotta libera. Nessuno lo batte a braccio di ferro. Salta più alto di qualsiasi altro e scaglia il martello più lontano di tutti, sempre. È andato perfino in Scozia per dei campionati. Mi conosce fin da quando ero piccolo. Siamo molto amici. Così mi è venuto di chiedergli: «Senti, per farteli così robusti questi muscoli, come hai fatto, Bob?» E lui: «Ho avuto la fortuna di incontrare un bravo allenatore che mi ha insegnato tutti gli esercizi necessari per sviluppare questo o quel muscolo e io li ho fatti, rifatti centinaia, migliaia di volte e continuo a farli. Allora io ho pensato a te e ho chiesto: Bob, tu pensi che un ragazzo che non ha mai fatto ginnastica e che ha delle gambe sottili e deboli possa fortificarsi con questi esercizi?» E lui si è messo a ridere e ha detto: «Saresti tu questo ragazzo con le gambe sottili?» Io ho risposto: «No, ma conosco uno che è stato molto malato. Ora sta guarendo e io vorrei imparare qualche trucco del genere per insegnarglielo». Allora lui mi ha gentilmente mostrato gli esercizi che lui fa sempre, spiegandomi per che cosa servono. Me li ha fatti ripetere più volte e ora li so a memoria. Colin lo ascoltava, senza perdere una sillaba. «Puoi mostrarmeli allora?» esclamò tutto eccitato. «Davvero?» «Certo», rispose Deacon balzando in piedi. «Però Bob si era comandato di andarci piano all'inizio, di non stancarti. Si deve avere un riposo fra un esercizio e l'altro. Si deve respirare profondamente e soprattutto non si deve esagerare. Appena ci si sente stanchi, si deve smettere. Farò come dici tu, tutto come dici tu, ma mostrami questi esercizi. Dai, mostrameli, Deacon. Tu sei una grande parte dell'incantesimo, sai? Davvero una grande parte.» Deacon si alzò e lì, sull'erba del prato, eseguì lentamente una serie di semplici esercizi per sviluppare i muscoli. Colin lo seguiva, movimento per movimento, con gli occhi spalancati. Ripeteva i movimenti che poteva fare stando seduto, poi si alzò e volle provare a rifarli stando in piedi. Mary si unì a lui, fuli dal suo ramo seguì tutto, tentò anche lui di muovere le ali e le zampette, Poi, persa la speranza di fare le stesse cose dei tre ragazzi, se ne volò via, alla ricerca di altre emozioni. Da quel momento, invece, per Colin e Mary e per l'istruttore Deacon, gli esercizi ginnici furono uno degli impegni quotidiani. Ogni giorno che passava, il numero delle volte in cui si facevano gli esercizi andava aumentando, e così aumentavano le forze e l'appetito. Per fortuna c'erano gli spuntini nel bosco o nel giardino, le ceste con il pane e la focaccia della mamma di Deacon, c'era il latte fresco, così era possibile continuare un po' la commedia delle pietanze non finite a pranzo o a cena. Non capisco, diceva l'infermiera, a volte mangiano quasi niente, a volte poco, eppure crescono, si irrobustiscono, prendono colore, tutti e due. Hanno deciso di farmi impazzire, faceva eco Mrs. Medlock. Sono due demoni. Certe volte non lasciano una briciola della colazione della mattina, poi o a pranzo o a cena arricciano il naso davanti ai piatti più appetitosi che la cuoca prepara. Ieri sera, per esempio, non hanno assaggiato neanche una forchettata di quel meraviglioso pasticcio. E la povera cuoca non sa cosa fare quando vede tornare i piatti intatti. Sta lì a pensare perché teme di essere accusata di non saper stuzzicare il loro appetito e di fargli soffrire la fame. Ah, devo parlare al dottor Craven appena torna da Londra. E così infatti fece quando dopo 2 settimane il medico tornò a visitare Colin. Siamo tutti preoccupati, dottore, perché non mangia quasi niente. La visita fu più lunga e accurata del solito. Ma come? Questo ragazzo in 15 giorni aveva fatto progressi notevolissimi e gli dicevano che non mangiava, eppure il vassoio del pranzo era ancora lì, con i piatti quasi pieni. E d'altra parte Colin stava veramente assai meglio. Il suo aspetto di bambino debole e malato stava sparendo per lasciare il posto a quello di un ragazzino sano e forte. Le sue guance avevano un tenue color di rosa, i suoi begli occhi erano adesso vivi e brillanti, e le occhiaie profonde erano diventate quasi invisibili. Anche i capelli, prima così pesanti e senza vita, erano diventati più soffici e lucidi. Le labbra non erano più così smorte e senza colore, ma avevano preso un aspetto sano. Il povero dottore non sapeva raccapezzarsi. Mi hanno detto che mangi poco, disse infine. Mi dispiace. Devi nutrirti se non vuoi perdere tutto il beneficio di questo innegabile miglioramento che riscontro in te. Qualche tempo fa mangiavi molto di più. Io avevo detto che quello era un appetito innaturale, disse serio, serio Colin. Mary stava seduta sul suo solito panchetto. Le scappò da ridere in modo così violento che non riuscì, per quanto cercasse di mascherarlo con un colpo di tosse, a nascondere il suono strano che le uscì dalla bocca. Cosa c'è? Chiese il dottore voltandosi verso di lei. Oh, mi era venuto da starnutire e nello stesso tempo da tossire. Disse la ragazzina che aveva ripreso il dominio di sé assumendo quella sua aria gelida di signorina sempre no. Però dopo, appena il medico fu uscito, confessò a Colin: Ho creduto di non farcela. Non ho potuto fare a meno di ridere perché mi è tornata in mente quella patatona che ti sei messo in bocca stamattina, spingendola con le dita perché non c'entrava tutta. E poi la tua faccia sporca di marmellata e di ricotta quando ti ingozzavi con quella meravigliosa crostata. Non ho proprio potuto fare a meno di ridere. Poi ho cercato di tossire. Cosa dici? Se ne sarà accorto che ridevo? No. No. Penso di no. L'avrebbe detto. Lei crede che possano mangiare qualcosa fuori dei pasti? Stava intanto chiedendo il medico a Mrs. Medlock che lo accompagnava nel corridoio. No, assolutamente, a meno che non mangino foglie e cortecce di alberi. Basterebbe che chiedessero, saremmo tutti pronti a dar loro qualcosa anche fuori orario, ma non chiedono niente. Ah, bene, concluse il medico, finché le cose vanno così, non c'è da preoccuparsi se i piatti tornano indietro mezzi pieni. Colin sta veramente bene adesso e questo è l'importante. Anche Mary è diventata un'altra, osservò la donna, è diventata quasi bellina ora che non ha più quell'aspetto malato. Gli occhi sono più vivaci, i capelli sono cresciuti più folti. Li vedo allegri quando stanno insieme lei e Colin, li sento sempre ridere. Forse è quello che li fa ingrassare. Forse sì, convenne il dottore. E lasciamoli ridere allora. Capitolo 25. La tenda. Il giardino segreto continuava a rifiorire, a rivivere e ogni mattina si potevano scoprire nuovi miracoli. Nel nido dei petirossi tutta l'attenzione era ora rivolta alle uova. La compagna dell'uccellino stava sempre accovacciata sopra di loro per riscaldarle con le tenere piume del suo petto e proteggerle con le sue piccole ali. Prima, quando nel giardino non entrava nessuno, era diverso, ma ora c'era sempre un viavai. I primi giorni lei si era molto spaventata vedendo tutti quegli intrusi e anche lui si era molto preoccupato. Per fortuna c'era Deacon, che aveva capito e aveva detto agli altri due che era meglio tenersi lontani dal nido fino a quando gli uccellini non si fossero abituati almeno un po' alle presenze strane. Così era avvenuto. Poi, a poco, Deacon, con quella sua capacità misteriosa di farsi capire e di capire i sentimenti degli altri, aveva rassicurato i due genitori. Non c'era nessuno in quel giardino incapace di comprendere la bellezza di quello che stava accadendo nel piccolo nido. L'immenso, tenero, bellissimo, commovente, solenne, sacro mistero della vita che sboccia. Non c'era nessuno in quel giardino incapace di comprendere cosa rappresentassero le uova per i petirossi. Potevano stare tranquilli perché nessuno si sarebbe avvicinato con pensieri di distruzione al nido prezioso. Tutti si rendevano conto che il portar via o il rompere un solo uovo avrebbe rappresentato per i due genitori un'esperienza terribile. D'altra parte, se anche una sola persona fra quelle che frequentavano il giardino fosse stata incapace di condividere questo modo di pensare, non si sarebbe respirata là dentro quell'atmosfera di serena felicità, non si sarebbe goduta così appieno quella gioiosa primavera. I tre ragazzi capivano perfettamente e amavano tutto della natura. Quando si resero conto di questo, il Pettirosso e la sua compagna cominciarono a divenire meno guardinghi e a poco più cordiali. Verso Deacon non c'erano stati problemi. Una qualche misteriosa vibrazione aveva fatto capire subito che da lui non ci si doveva aspettare nulla di male. La prima volta che l'uccellino aveva posato il suo occhio goccia di rugiada nera su quel ragazzo forte e allegro, l'aveva visto e più che altro sentito come una specie di pettirosso più grande, senza ali e senza becco, ma con lo stesso modo di pensare. Sapeva parlare il pettirossese e questa era già una buona ragione per considerarlo amico. Sapeva anche muoversi come i pettirossi. Non faceva mai dei gesti che potessero impaurirli e quindi era una presenza rassicurante. Per quello che riguardava gli altri due, invece, c'erano stati dei grossi dubbi. Prima di tutto il ragazzo entrava nel giardino non camminando sulle proprie gambe, ma su una strana cosa meccanica con le ruote. Sulle ginocchia, nei giorni un po' freddi, aveva delle pelli di animali selvatici e poi aveva cominciato ad alzarsi e camminare, ma lo faceva in un modo così strano. Sembrava che avesse bisogno di appoggiarsi agli altri. Il pettirosso si nascondeva in un cespuglio e da lì osservava tutto attentamente, piegando la testina, ora da un lato, ora dall'altro. Quei movimenti lenti lo mettevano in guardia, assomigliavano a quelli che fanno i gatti quando stanno per saltarti addosso. Il Pettirosso ne parlò e riparlò alla sua compagna, ma poi pensò che era meglio lasciar stare l'argomento a causa del terrore che aveva visto nelle pupille di lei. C'era bisogno di calma e di serenità per covare bene le uova senza correre il rischio di romperle per qualche movimento inconsulto dettato dalla paura. Quando Colin cominciò a camminare e a tentare anche le prime corse, i due uccellini tirarono un sospiro di sollievo. Restava il fatto che il ragazzo, a differenza degli altri, si riposava frequentemente, sedendosi o stendendosi su una coperta per terra. Ma poi il pettirosso si ricordò che anche lui, quando imparava a volare, aveva bisogno di frequenti riposi. Lo disse alla Pettirossa e insieme pensarono che anche i loro piccoli avrebbero fatto lo stesso e questo li rassicurò entrambi. Anzi, li fece addirittura seguire con interesse i progressi di quell'essere umano che imparava a camminare E in cuor loro pensarono anche che i pettirossini sarebbero stati più bravi di lui, avrebbero imparato in meno tempo a muoversi da soli, ma si sa, e loro avevano le ali. Poi venne un'altra novità. I ragazzi si mettevano in piedi sotto un albero e muovevano le braccia, le gambe, la testa in un modo che non era né correre, né volare, né camminare. Facevano gli stessi movimenti tutti e tre insieme, ripetevano le stesse parole. Uno, due, tre, quattro. Mentre alzavano o abbassavano le braccia, o si sedevano, o si piegavano in avanti o in basso, flettendo la schiena. Però, siccome anche il ragazzo che parlava pettirossese partecipava al gioco, non doveva esserci pericolo di nulla. Certo, gli uccelli non devono fare ginnastica per fortificare i loro muscoli. Il fatto di dover muovere ogni giorno le ali per andare alla ricerca del cibo li mantiene sempre in esercizio. Poi Colin cominciò a fare esattamente come gli altri due. Vangava, zappava, strappava le erbacce. E allora ogni timore scomparve, anzi divenne un divertimento stare a osservare i ragazzi e quando pioveva e non venivano in giardino, gli uccellini si sentivano un po' tristi e abbandonati. Mary e Colin invece non si annoiavano più, nemmeno nei giorni di pioggia. Una mattina che l'acqua veniva giù a catinelle, i due cugini erano insieme. Colin stava disteso sul divano, ma era un po' impaziente, non si poteva alzare, sempre perché non voleva che lo vedessero camminare e giocare normalmente, ma ormai gli pesava questo dover stare seduto o sdraiato per delle ore. Mary, quando mi sveglio la mattina presto e sento gli uccelli che cantano perché sono felici di vivere, mi viene voglia di saltare giù dal letto per non perdere neanche un minuto di questa giornata, che è veramente un regalo che la vita ci fa ogni mattina. Pensa ogni giorno un regalo così bello. Ma se io lo facessi, se mi alzassi, tu ti immagini cosa succederebbe? Mary si mise a ridere. L'infermiera correrebbe al rumore, chiamerebbe Mrs. Medlock, penserebbero che sei impazzito, chiamerebbero il dottore. Colin si divertiva al pensiero. Assaporava la gioia che avrebbe provato vedendo la sorpresa nei visi della gente attorno a lui il giorno in cui si sarebbe messo a camminare da solo, dritto e forte davanti a tutti. Come vorrei che mio padre tornasse presto a casa, disse dopo un po'. Voglio fargli questa sorpresa. Non posso farmi scoprire prima, ma intanto adesso mi pesa star sempre sdraiato o seduto quando c'è pericolo che qualcuno mi scopra. Anche guardandomi nello specchio, vedo che sono cambiato, non credo che si possa tener nascosto più per tanto tempo che sono andato migliorando. A Mary venne un'idea luminosa per dare una mano al cugino. Colin, tu sai quante stanze ci sono in questa casa? Chiese con aria di mistero. E ce ne saranno 1.000, credo. Non esagerare, però ce ne sono tante, tante, forse 100, in cui nessuno entra mai. E tu come fai a saperlo? Era proprio un giorno di pioggia come questo. Ero appena arrivata dall'India. Mi sono avviata per un corridoio, poi per un altro e poi per un altro e sono entrata in un sacco di stanze, ma molte erano chiuse a chiave e non ho potuto aprirle. Mentre cercavo la strada per tornare in camera mia, la Medlock mi ha beccata. Ero qui nel corridoio vicino alla tua stanza. È stato quel giorno che ti ho sentito piangere per la seconda volta. Colin si era addrezzato a sedere sul divano. Circa un centinaio di stanze dove nessuno entra? È qualcosa tipo il giardino segreto. E se andassimo a vederle? Tu potresti spingere la mia carrozzella e nessuno ci disturberebbe. È appunto quello che stavo pensando. Nessuno oserebbe seguirci. Ci potremmo allontanare da qui e andare in uno di quei corridoi lunghi e larghi dove si potrebbe anche correre. Potremmo fare ginnastica. C'è una stanza con tappeti e mobili che penso vengano dall'India. In un cassetto ci sono tanti elefantini d'avorio, ma ci sono stanze di tutti i tipi, per tutti i gusti. Oh, suona subito il campanello! L'infermiera entrò dopo pochi secondi e Colin dette i suoi ordini. Mary ed io andiamo un po' a girare nella parte disabitata della casa. John mi porterà fino alla galleria dei ritratti perché ci sono dei gradini da fare, poi può andar via e lasciarci soli fino a quando non lo richiameremo. Che idea stupenda aveva avuto Mary. Da quel giorno neppure la pioggia e il non poter uscire sarebbero stati noiosi, anzi avrebbero avuto un loro fascino. Il cameriere portò la carrozzella fino alla galleria dei ritratti, poi se ne andò secondo gli ordini. Quando Mary e Colin furono sicuri che nessuno li vedesse, si scambiarono uno sguardo d'intesa. Poi Colin scese dalla carrozzina. Cominciamo col correre fino in fondo a questo corridoio. Poi salteremo tutti questi sgabelli, li spostiamo al centro. Poi faremo gli esercizi di Bob. Così fecero e inventarono anche altre cose. Nascondersi in una stanza o in un'altra, andarsi a cercare, guardare i ritratti, aprire gli armadi e i cassetti dei mobili. Mary fece un sorriso alla ragazzina col vestito di broccato verde e il pappagallo. Sono tutti nostri parenti, vissuti tanto tempo fa. Quella con il pappagallo deve essere una pro-pro-pro-prozia, spiegò Colin. Ti assomiglia un po', Mary. Ma non come sei adesso, come eri quando ti ho vista la prima volta. Ora sei molto più carina, più grassottella. Senti chi parla di grassottello, risero tutti e due. Continuando la loro ispezione, entrarono nella stanza dove c'erano gli elefantini. Li tirarono fuori dal cassetto. Ci giocarono dividendoli in due squadre e facendoli giocare al calcio con una pallina di avorio trovata in un altro cassetto. Poi Mary volle andare a vedere cos'era successo di quei topolini che avevano il loro nido in quel cuscino di seta del salottino rosa. Non c'erano più. Il cuscino era sempre là, ma si vede che una volta cresciuti erano andati a cercarsi una tana più adatta. Andarono da una stanza all'altra e ne visitarono tante, più di quelle che aveva visto Mary la prima volta. Scoprirono insieme altri corridoi, altre porte, altre scale, altri quadri, altri strani oggetti antichi di cui non sapevano l'uso. Fu una mattinata straordinaria. Sono contentissimo di aver fatto questo giro, disse Colin alla fine. Non avrei mai immaginato di vivere in una casa così grande, strana, piena di cose antiche. Mi piace. Nei giorni di pioggia andremo gironzolando finché non l'avremo visitata tutta, da cima a fondo. Mi sa che troveremo ancora altre sorprese. Quando tornarono in camera e trovarono il pranzo pronto, si misero a mangiare di gusto, senza neanche pensare a far finta di non aver fame, e finirono tutto, fino all'ultima briciola. In cucina la cuoca commentò: Se questa non è la casa dei matti, io non sono più io. Se continuano così, replicò John, fra poco cambierò mestiere perché Colin sarà diventato troppo pesante da trasportare. Da quando ho cominciato a portarlo giù per le sue passeggiate, è raddoppiato di peso. Mary si era seduta sul suo sgabello e guardava il ritratto sopra il caminetto. Aveva osservato quel particolare anche il giorno prima, ma non ne aveva parlato perché pensava che fosse un caso fortuito. Però invece, visto che la cosa continuava, se ne stava ora a fissare il ritratto senza dir nulla, ma con una gran voglia di chiedere a Colin cosa significasse quella novità. La tenda era stata tirata e la giovane signora sorridente metteva una nota di allegria nella stanza. Colin seguì un attimo lo sguardo della cugina, poi disse: So che vorresti chiedermi una spiegazione, ormai ti conosco troppo bene, non c'è bisogno che tu apra la bocca. Stai chiedendomi come mai la tenda è stata tirata. Non la vedrai più quella tenda, ho deciso di farla togliere del tutto. E come mai? Chiese allora Mary. Perché non mi fa più rabbia vederla ridere. Due notti fa mi è capitato di svegliarmi in mezzo a un sogno. C'era un chiaro di luna stupendo, la stanza era tutta illuminata da quella luce d'argento e io mi guardavo in giro, notando com'era bello osservare le cose in quella luce fantastica. Un raggio batteva giusto sulla tenda. Qualcosa mi ha spinto ad alzarmi, andare là e tirarla e ho visto gli occhi della mamma guardarmi, sorridendo come se fosse contenta di vedermi lì, vicino a lei, senza risentimento o paura. Per la prima volta ho provato piacere nel vederla così sorridente e contenta. Voglio guardarla sempre. Il suo sorriso mi fa sentire bene adesso. Come le assomigli, esclamò Mary. Pensa, lei vive ancora attraverso di te. Quest'idea sembrò impressionare Colin, che ci riflette sopra a lungo. Se la mamma vive in me, allora mio padre dovrebbe volermi molto bene. Ti piacerebbe che ti volesse molto bene? Non c'è mai stato affetto da parte mia per lui, perché ho avuto sempre l'impressione che lui si curasse poco di me. Ma se scoprissi che lui mi vuole bene, sarei veramente felice. L'incantesimo sarebbe completo allora. Gli parlerei del giardino, gli racconterei tutto e Forse sparirebbe quell'aria triste dal suo viso. Ecco cosa ricordo di lui, quell'aria triste. Forse potrebbe venire anche lui con noi. Gli potrei raccontare il segreto. Capitolo 26. Questa storia dell'incantesimo occupava molto la mente dei ragazzi. Cercavano di capirne qualcosa di più, di scoprire meglio ogni giorno cosa fosse in realtà e come funzionasse. Capivano che era perché in qualche modo c'entrava lui, che succedevano tante cose. Pensavano d'altra parte che c'era anche in loro qualcosa che li aiutava a realizzare i loro progetti, i loro progressi. Questo non poteva essere che qualcosa, in qualche modo, legata all'incantesimo più grande che avvolgeva il mondo. Colin, specialmente, si dedicava a queste ricerche appassionanti con entusiasmo e costanza. Mi piace parlarne con voi, farvi delle conferenze su questo argomento. Quando sarò grande diventerò uno scienziato. Farò delle grandi scoperte scientifiche. Dovrò tenere delle conferenze in tutto il mondo. Allora, e così comincio a esercitarmi adesso. Per ora posso dirvi solo i miei pensieri, così come mi vengono in mente. Non sono ancora capace di parlare come un vero scienziato. E poi non possono essere conferenze troppo lunghe, altrimenti Ben si addormenta. E va ancora bene se si addormenta, ma lui brontola anche. Eh sì, diceva per conto suo Ben. Bella forza a fare il conferenziere. Uno parla, parla, parla, parla da solo però. Nessuno può interromperlo. Qualche volta farebbe comodo anche a me fare il conferenziere. Però, quando Colin si metteva dritto sotto l'albero e parlava, il vecchio non gli toglieva gli occhi di dosso e non perdeva una sillaba. Faceva le sue critiche, è vero, ma il suo era un brontolio affettuoso. Per dire proprio la verità, non lo interessava tanto ascoltare quello che Colin diceva, quanto guardare come quelle gambe che lui aveva creduto storpie diventassero ogni giorno più forti, come quella bella testa infantile si ergesse sempre più sicura sulle spalle che andavano fortificandosi, come quel mento, una volta così affilato, e quelle guance, una volta così scarne, andassero riempiendosi e assumendo contorni meno angolosi, e come gli occhi stessero prendendo sempre più l'espressione luminosa che lui ricordava di aver visto in un altro paio di occhi. Colin, osservando lo sguardo del vecchio posato su di lui con tanto interesse, pensava che fosse molto impressionato dai suoi discorsi e si chiedeva quali mai fossero i suoi pensieri. Così, un giorno in cui lo sguardo di Ben gli sembrava più intenso del solito, gli disse: "Dimmi, Ben, cosa ne pensi di tutto questo?" "Penso", rispose serio il giardiniere, "che durante questa settimana devi aver messo su 1,5 chili o 2. Stavo osservando i tuoi polpacci e le tue spalle. Mi piacerebbe metterti su una bilancia." "È merito dell'incantesimo, e beh, anche delle focacce, del latte, dei biscotti che ci manda Susan Sowerby", ribatté Colin. "Vedi, Ben, il mio esperimento è riuscito bene finora e non dubito del successo finale. È un esperimento scientifico." Quella mattina Deacon era arrivato un po' tardi e non aveva assistito alla conferenza. Appena arrivato lui, si erano messi subito a lavorare con grande lena, tutti e tre. Era la prima mattina di sole dopo vari giorni di pioggia e le erbacce erano cresciute in abbondanza. Quell'umidità, che faceva tanto bene alle piante coltivate, era benefica anche per quelle matte, e i ragazzi avevano molto da fare. Colin era ormai diventato bravissimo e lavorava come gli altri. Ad un tratto si alzò sulla persona, allargò le braccia stirandosi e disse in uno scoppio di gioia: "Mary, Deacon, guardatemi. Vi ricordate la prima volta che mi avete portato qui? Ci ripensavo adesso. Scusami, Deacon, ma quando tu hai detto che sarei stato capace di fare come voi, non ti ho creduto. Invece, guardate ora. Guardate quanto erbacce ho strappato. E mi sento bene, mi sento bene. L'incantesimo ha funzionato." "Anche tu hai funzionato aiutandolo con la tua volontà", esclamò Mary. Il viso di Colin era rosso per la gioia. Aveva tanto pensato a queste cose, aveva tanto riflettuto e sperato di capire. Però in quel momento era successo in lui qualcosa che non dipendeva dalla ragione, ma lo rendeva felice. Era una specie di sicurezza meravigliosa, una sensazione di benessere e di ottimismo che gli faceva sentire con gioia com'era bello vivere, com'era bello avere degli amici con i quali stare, com'era bello far progetti per il domani. Sento che vivrò e diventerò grande, studierò, sarò uno scienziato, scoprirò moltissime cose sugli esseri umani, su tutte le creature che popolano questa terra. Diventerò come Deacon, che sa tutto sulle piante e sugli animali. Parlerò a tutti di queste cose e dell'incantesimo. È grazie a lui che mi sento così. Mi sento così grato per questo che vorrei esprimere il mio grazie. Potresti cantare un salmo allora? Borbottò Ben, che stava sarchiando un rosaio e non aveva smesso di lavorare, ma aveva ascoltato tutto. Non era un gran credente, Ben, e non aveva fatto quella proposta con intenzione riverente, ma Colin era un ragazzino intelligente e voleva andare a fondo di tutte le cose. Cos'è un salmo? Chiese. Oh, chiedi a Deacon, scommetto che lui ne sa di certo cantare qualcuno. Oh, sì, i salmi si cantano in chiesa. La mamma dice però che le allodole li cantano nei boschi la mattina presto. Ma tu ne sai qualcuno? Io non sono mai stato in una chiesa. Nessuno ha mai pensato a portarmi. Poi ero così malato. Non volevo uscire. Ma nessuno me ne ha mai parlato. Ma se sai un salmo, cantalo, Deacon. Deacon era un ragazzo semplice, senza complessi, senza problemi. Capì ciò che Colin provava meglio di quanto lo capisse lo stesso Colin. Deacon seguiva un istinto naturale che non sapeva si chiamasse comprensione. Si tolse il berretto e disse, sorridendo agli altri: Toglietevi anche voi il cappello e dovete stare in piedi, non seduti. Ben si tolse il berretto, si grattò una guancia con aria abbastanza scocciata e pensò: Cosa mai mi è venuto in mente? Deacon, ritto fra i cespugli di rose, cominciò a cantare con naturalezza e con una voce intonata e simpatica. Benedetta la Signora che ha ascoltato la voce della mia supplica. La Signora è il mio aiuto e la mia protettrice. In lei spera il mio cuore. Fui soccorso e rifiorì la mia carne. E con tutto il mio cuore a lei do lode. Quando Deacon tacque, Colin, che aveva un'espressione pensosa e ammirata sul viso serio, esclamò: Grazie, Deacon, è un bel canto, e forse mi ha suggerito proprio le parole giuste per esprimere quello che sentivo e che sento dentro. Una gratitudine immensa per la vita, per la gioia che mi dà. Sentirmi parte della natura, per la speranza del mio domani, per la forza della mia volontà che può portarmi al bene. Insomma, tu hai chiamato signora quello che io ho chiamato incantesimo. Forse sono la stessa cosa, chiamata con due nomi diversi. Come si può sapere esattamente? Ma ti prego, Deacon, cantamelo ancora quel salmo, voglio piantarlo anch'io. E tu, Mary, con noi. Come sono le parole? Cantarono insieme, armonizzando il tono delle loro voci. Ben taceva, ma li guardava e si vedevano passare dei pensieri, dei ricordi lontani nei suoi occhi. Forse tornavano alla sua mente le immagini di lui ragazzino e della sua mamma che lo portava in chiesa. Fatto sta che alla fine del secondo versetto si schiarì la gola e si unì al coro con un vigore quasi rabbioso quando arrivarono infine. Mary notò che gli era accaduta la stessa cosa che gli aveva trasformato l'espressione del viso quando si era accorto che Colin non era storpio. Aveva il mento che gli tremava, le palpebre che sbattevano e le guance incartapecorite piene di lacrime. Non avevo mai pensato che le parole dei salmi avessero un senso, brontolò, ma forse è ora che cambi idea. Colin, vuoi farmi ingrassare anche a me? Ma Colin non gli prestava attenzione. Stava osservando la porta del giardino che si stava aprendo lentamente e lasciava entrare una donna sconosciuta. Si fermò un attimo appena entrata e così, con l'edera che le faceva da sfondo, la luce del sole che filtrava tra le foglie degli alberi e disegnava punti luminosi sul suo grembiule blu, il viso sorridente e sereno, Sembrava un'illustrazione uscita di nascosto piano piano da uno dei libri di Colin. I suoi occhi erano bellissimi e pieni di affetto e abbracciavano con il loro sguardo tutto quanto era lì nel giardino, inclusi Ben, gli animaletti di Deacon e ogni più piccolo fiore. Malgrado fosse una visita inaspettata, nessuno la sentì come un'intrusa. Il viso di Deacon si illuminò e dalla sua bocca uscirono allegre parole. «Guardate chi c'è! La mia mamma!» Le andò incontro correndo sull'erba del prato e Colin e Mary lo seguirono camminando più piano, ma tutti e due avevano il cuore che galoppava. «Ecco la mamma!» disse Deacon quando si incontrarono a mezza strada. «Sapevo che vi avrebbe fatto piacere vederla e le ho spiegato come poteva trovare la porta sotto l'edera». Colin le porse la mano con uno di quei suoi gesti copiati dai grandi, ma i suoi occhi erano fissi nel viso della donna con un'espressione di profondo, semplice affetto. «Appena ho sentito parlare di lei, ho desiderato conoscerla. Allora ero malato, non volevo vedere nessuno, poi... Mary mi ha fatto conoscere Deacon. Poi siamo venuti qui nel giardino e abbiamo mangiato le sue crostate e i suoi biscotti». Vedere quel viso proteso verso di lei, ascoltare quelle parole, commosse Susan Sowerby. Arrossì mentre gli angoli della bocca le tremavano leggermente. «Caro», disse poi con la voce un po' tremula, «caro». Si rivolgeva a Colin come avrebbe fatto con uno dei suoi figli e lui ne fu conquistato. «È sorpresa di vedermi così bene? È per quello che le trema la voce?» Susan gli mise una mano sulla spalla e sorrise. «Oh, caro!» ripeté. «Sì, sono commossa. Assomigli talmente alla tua mamma che quando ti ho visto ho sentito un nodo in gola. Lei crede...» esitò Colin imbarazzato. «Insomma, se io assomiglio alla mamma, lei crede che allora mio padre, forse... mio padre potrebbe volermi bene?» «Oh, ne sono sicura, caro», affermò lei facendo una rapida carezza sulla guancia del ragazzo. «Dovrebbe essere qui tuo padre, dovrebbe essere qui!» «Susan Sowerby», intervenne allora Ben avvicinandosi, «guarda le gambe di questo ragazzo. Hai presenti le due bacchette per suonare il tamburo? 2 mesi fa erano come quelle. Avevo sentito la gente dire che erano storte, storpie, in modo da non reggerlo in piedi, e guarda adesso!» La donna rise. «Sono sulla buona strada per diventare 2 gambe belle e forti, come quelle di qualsiasi ragazzo sano», disse poi. «Lasciate che giochi, corra, salti e lavori nel giardino ancora per qualche mese, che continui a mangiare con appetito tutto quello che gli viene dato, che continui a bere il latte come fa ora, e le sue gambe saranno da campione». Poi Susan si rivolse a Mary, appoggiò le 2 mani sulle spalle della ragazzina e la guardò con affetto materno. «E anche tu», disse, «anche tu hai fatto dei grandi progressi, da quello che ho saputo da Marta. Io ti trovo bella e poi ammiro il tuo spirito d'iniziativa. Sei proprio una cara ragazza. Vuoi vedere tutto quello che abbiamo fatto nel giardino?» chiese Deacon. «Certo», rispose la mamma e si avviò. Deacon davanti, Mary e Colin una da un lato, uno dall'altro. Erano tutti molto contenti di stare in compagnia di quella donna che ispirava un senso di benessere, di affetto e di intimo calore umano.